Buddhist practice is a religion. Quindi ieri sera stavamo parlando di come la pratica buddista è una religione. If we understand religion to mean bringing us back to our natural, our original nature. Se intendiamo per religione il riportarci alla nostra natura originaria. And this is the aim of all Buddhist practice. E questo è l'obiettivo di tutte le pratiche buddiste. But the path there includes two processes. Ma il sentiero che ci porta lì comprende due processi. The first one is the insight, understanding more and more deeply these three characteristics of existence. Il primo è quello di comprendere sempre più profondamente queste tre caratteristiche dell'esistenza. Mm. So really beginning to understand or to see clearly the process of change, of transience. Quindi cominciare a capire e a vedere molto chiaramente questo processo del cambiamento, la transitorietà. The role of desire. E poi il ruolo del desiderio. Remember, there are good desires. The desire to become liberated is a desire we want. Ricordate che ci sono dei buoni desideri, per esempio il desiderio di diventare liberati, questo è una cosa che noi vogliamo perseguire. It's the desire to become to seek real happiness in the sensual world, you see. E invece quello che vogliamo evitare è il desiderio di cercare la vera felicità all'interno del mondo sensoriale. And this is what we mean by a psychological dependency on something. E questo è quello che chiamiamo una dipendenza psicologica su qualcosa. That's what we mean by attachment. Ed è quello che intendiamo per attaccamento. Mm. And then finally, at the deepest level, our sense of identity. E poi infine, ad un livello più profondo, il nostro senso di identità. So, questions such as who am I? What am I? Domande del tipo chi sono o cosa sono. Why am I here? Perché sono qui? No. Why am I conscious? Perché sono cosciente? Ah. So this is the great existential question, for the Jean-Paul Sartre, people like that. E questa è la grande domanda esistenziale per persone come Jean-Paul Sartre. To be conscious and to be suffering, to know we are suffering. Essere coscienti e sapere che stiamo soffrendo. Why? Perché? So the purpose of our practice is to find an answer to these things. E lo scopo della nostra pratica è trovare una risposta a queste domande. And the Buddha is saying that there is already within us, this is not manufactured, there is already within us that which is not part of this psychophysical organism. Secondo il Buddha, questo è già dentro di noi, non è una cosa costruita. Già dentro di noi c'è something which is not part of this psychophysical organism. C'è qualcosa che non è parte di questo organismo psicofisico. And he says that when we are the observer, the inner observer, the inner feeler, we're very close to understanding. E ci dice che quando noi siamo questo osservatore interiore, questo persona che percepisce ciò che ci sta accadendo, noi siamo molto vicini a comprendere questo aspetto. The sense of self, the observer, you see, is pointing us in the right direction. Questo senso del sé, cioè l'osservatore, è come se ci indicasse la direzione giusta. But that's not what we're searching for, is we're not searching for this sense of self, you see. Ma non è quello che stiamo cercando, non stiamo cercando questo senso del sé. So hopefully during the week this will become a little bit more obvious to us, yeah. Spero che durante la settimana questo ci diventerà più ovvio. But now the other side of our practice is the purification of the heart. L'altra parte della nostra pratica è la purificazione del cuore. you can't separate the process of understanding from the process of ethics. Non si può separare il processo della comprensione dal processo della etica. Because the way we behave is a measure of our delusions. Il modo in cui ci comportiamo ci dà la misura delle nostre illusioni. And also the measure of our wisdom. È anche la misura della nostra saggezza. So wisdom, for instance, manifests naturally as compassion. La saggezza si manifesta in modo naturale nella compassione. We can begin to understand, at least at an intellectual level, that we are all in a state of interdependency. Riusciamo a capire, almeno a un livello intellettuale, che siamo tutti in una interconnessione, in un rapporto di interconnessione. But this makes very little sense if it doesn't express itself as love. E questo però ha poco senso se non si esprime sotto forma di amore. So there has to be that connection for us between the our ethical and moral life and the way we and our understanding as to why we're here. E quindi deve esserci questo collegamento tra il modo in cui ci comportiamo, il nostro codice etico e morale, e il comprendere perché siamo qui. So that level of practice comes about when we are looking at desire. Quindi quel livello di pratica emerge quando noi analizziamo questo aspetto del desiderio. Yeah. And if we use our eating in order to investigate this whole process about desire, then it gives us a platform to enter into all the other areas of our lives. E quindi se noi utilizziamo questo processo del mangiare per comprendere appunto come funziona il desiderio, allora possiamo usarlo come piattaforma per trasportarlo poi in altre aree della nostra vita. Because the psychology is always the same. Perché la psicologia che ci sta dietro è sempre la stessa. So we have to really discern the process of desiring and identifying. Dobbiamo veramente discernere questo processo del desiderare e della identificazione. So, take the food you need. Prendete il cibo che vi serve. Form the right relationship with it. Create una relazione giusta con esso. This is medicine for the body. E quindi consideratelo medicina per il corpo. That the pleasant taste is not necessary. Questo il gusto piacevole non è necessario. But on the other hand, we can appreciate it. We can savor. Ma allo stesso tempo lo possiamo apprezzare, ne possiamo godere. Gustarlo. So when and then after we've experienced that, to make an intention to swallow. Poi dopo che abbiamo fatto questa esperienza, possiamo esprimere l'intenzione di ingoiare. And when the desire to eat again, to make sure we reestablish the right connection. Quando sorge il desiderio di mangiare ancora, assicuriamoci di stabilire la giusta relazione. And to keep close to the body, you see. Mantenetevi vicini al corpo. So when the body says enough, that's enough. Quando il corpo vi dice basta, allora basta. And then we sit there with any extra desire, you see. E poi ci sediamo lì e sentiamo se c'è questo desiderio aggiuntivo. And this we recognize as greed. E questo noi lo riconosciamo come avidità. Seeking happiness in food. Di cercare la felicità nel cibo. And if we just wait until that energy dies away, we are undermining this the greed that is within us. E se aspettiamo che questa energia si esaurisca, allora stiamo proprio andando a intaccare questa questa brama, questo desiderio, questa avidità che c'è dentro di noi. And remember that all these habits are not directly connected with the object that they want. Ricordate che tutti questi desideri non sono direttamente collegati con l'oggetto che vogliamo. Greed will seek anything to satisfy it. Perché questa brama cercherà qualsiasi cosa per essere soddisfatta. So the object's not the problem. Quindi il problema non è l'oggetto. The problem is the inner attitude. Il problema è l'atteggiamento interno. So if we can undermine greed for food, we will be undermining greed for everything. Quindi se riusciamo a sradicare questa brama per il cibo, lo faremo anche per qualsiasi altra cosa. If we undermine our aversion to something, we undermine our aversion to everything. E quindi se riusciamo a sradicare o minare alla base, diciamo, la nostra avversione verso una cosa, beh, poi riusciremo a di nuovo minare l'avversione nei confronti di altre cose. And the same applies to our virtues. E la stessa cosa si applica alle nostre virtù. If I'm generous to somebody, I'm generous. I'm developing my generosity to everybody. Se io sono generoso con una persona, io sviluppo la mia generosità nei confronti di altri o di tutti. If I'm patient with somebody, I'm developing patience with everybody. Se sono paziente con una persona, sviluppo la pazienza con tutti. So that's why, why we should take our daily eating seriously. Ed è per questo che dovremmo prendere seriamente il nostro mangiare quotidiano. We eat every day, maybe 2, 3, 5, 10 times a day. Mangiamo tutti i giorni, 2, 3, 5, 10 volte al giorno. Some people are like cows, they graze all day. Altre persone sono come le mucche che pascolano e brucano, mangiucchiano tutto il giorno. So if every time we see ourselves going towards food, towards a drink, you see, just stop for a moment and create the proper relationship. Ogni volta che ci troviamo ad avvicinarci al cibo o a una bevanda, fermiamoci un attimo e stabiliamo questa giusta relazione. Then after we finish breakfast, remember there's maybe a time when there's nothing to do, you see. Dopo colazione ricordatevi che spesso c'è un momento in cui non c'è nulla da fare. There are many times in ordinary daily life when there's nothing to do. Ci sono molti momenti nella nostra vita ordinaria dove non c'è nulla da fare. Such as, waiting for a bus, walking upstairs, going from here to there to meet somebody. Come aspettare l'autobus o andare da qui a lì o aspettare o andare verso qualcuno per un incontro, per esempio. And we just let the mind wander. E in questi momenti lasciamo semplicemente che la mente divaghi. On its old habits. E quindi torna a ripetere le vecchie abitudini. So here we work very hard to undermine unwholesome habits, and then when we go back into the world, we churn them up again. Allora qui lavoriamo duramente per appunto sradicare le vecchie abitudini e poi torniamo a casa e le riprendiamo come prima. Our practice has to be taken into daily life. La nostra pratica va portata nella vita quotidiana. So when you have these little gaps of nothing to do, fill it with metta or with just feeling relaxed, feeling at ease. Allora quando ci sono questi spazi in cui non c'è nulla da fare, beh, riempiteli o con la metta oppure con un stato di rilassamento, di sentirsi a proprio agio. And then there's the work period. E poi c'è il periodo dei lavori. So remember, when we are working in ordinary daily life, we're not trying to be aware of ourselves doing something. Quindi ricordate, quando lavoriamo nella nostra vita ordinaria, non cerchiamo di essere consapevoli che stiamo facendo qualcosa. Self-awareness arises naturally, but we're not trying to develop it. Perché questa autoconsapevolezza sorge naturalmente, ma non è che stiamo cercando di svilupparla. We want to become absorbed in what we're doing. Che noi vogliamo diventare assorbiti in quello che facciamo. No, we want to lose the sense of self. Vogliamo perderlo, il senso del sé. What is absolutely important is the manner in which you go into the absorption. Quello che è molto importante è il modo in cui si entra in questo assorbimento. If you go into your action with a sense of rush, a feeling of irritation, that's what you'll be developing. Se noi entriamo nell'azione con un senso di fretta o irritazione, allora sarà questo l'atteggiamento che stiamo sviluppando. So it's always necessary to stop and establish the right attitude. Quindi è sempre necessario fermarsi e stabilire il giusto atteggiamento. And it can be just to do something excellently. E può essere anche semplicemente il voler fare qualcosa in modo eccellente. It could be for the benefit of myself, the benefit of somebody else. Oppure fare qualcosa per il proprio beneficio, per il beneficio degli altri. A sense of service. Un senso di servizio. So there's all sorts of good motivations that we can give ourselves for doing something. Ci sono un'infinità di buone motivazioni che possiamo dare a noi stessi per nel fare qualcos'altro. And once you begin your work, it doesn't mean to say the mind won't wander. Quando si inizia il proprio lavoro, questo non significa che la mente non divagherà. Or suddenly some irritation comes in. Oppure sicuramente sorgerà un po' di irritazione. So it's a case of being aware of that, stopping and re-establishing the right relationship. Quindi si tratta di esserne consapevoli, fermarsi e ristabilire la giusta relazione. Sì. Enough of that. Basta così. È sufficiente. So take your time, feel at ease, buon appetito. Prendetevi il vostro tempo, sentitevi a vostro agio e buon appetito.